Coscienza, non sono più permesse gli stati di emergenza, si trascinano nell'insicurezza. Thank you. stati di stasi, la stasi, stati di stasi. Non si arriva e non sono.